Cari fratelli e sorelle, nelle nostre escursioni al mondo dei padri della Chiesa vorrei oggi guidare in una parte poco conosciuta di questo universo della fede, cioè alle chiese semitiche, di lingua semitica non ancora influenzate dal pensiero greco. Queste chiese si sono soprattutto estese lungo il IV secolo in Siria, dalla Terra Santa al Libano alla Mesopotamia. Le comunità siriache del IV secolo rappresentano quindi il mondo semitico da cui è uscita la Bibbia stessa e sono espressione di un cristianesimo la cui formulazione teologica non è, come detto, ancora entrata in contatto con correnti culturali diverse, ma vive in forme proprie di pensiero. Sono chiese in cui l'ascetismo sotto varie forme eremitiche e il monachesimo sotto forme di vita comunitaria esercitano un ruolo di vitale importanza nello sviluppo del pensiero teologico e spirituale. E vorrei presentare questo mondo in una grande figura, Afraate, conosciuto anche col soprannome di Saccio, una delle figure più importanti di questo universo della fede, allo stesso tempo una figura abbastanza enigmatica. Originario fu dalla regione di Ninive, Mosul, oggi nell'Iraq, visse nella prima metà del IV secolo. Abbiamo poche notizie sulla sua vita, intrattenne comunque rapporti stretti con gli ambienti ascetico-monastici della Chiesa siriaca, di cui ci ha conservato notizie nella sua opera e a cui dedica parte della sua riflessione. Secondo alcune fonti fu anzi a capo di un monastero e infine fu anche consacrato vescovo. Scrisse 23 discorsi conosciuti con i nomi di esposizione o dimostrazioni, in cui tratta diversi temi di vita cristiana come la fede, l'amore, il digiuno, l'umiltà, la preghiera, la stessa vita ascetica e anche il rapporto tra giudaismo e cristianesimo, tra Antico e Nuovo Testamento. Afraate era originario di una comunità ecclesiale che si trovava alla frontiera tra il giudaismo e il cristianesimo. Era una comunità molto legata alla Chiesa Madre di Gerusalemme e i suoi vescovi venivano scelti tradizionalmente fra i cosiddetti familiari di Giacomo, il fratello del Signore, erano cioè persone collegate per sangue e per fede alla chiesa di Gerusalemme. La lingua di Afraate era quella siriaca, una lingua quindi semitica come l'ebraico dell'Antico Testamento e come l'aramaico parlato dallo stesso Gesù. La comunità ecclesiale in cui si trovò a vivere Afraate era una comunità che cercava di restare fedele alla tradizione giudeo-cristiana di cui si sentiva figlia. Essa manteneva perciò uno stretto rapporto con il mondo ebraico e con i suoi libri sacri. Significativamente Afraate si definisce discepolo della Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento, che considera la sua unica fonte di ispirazione, ricorrendovi in modo così abbondante da farne il centro della sua riflessione. Diversi sono gli argomenti che Afraate sviluppa nelle sue esposizioni. Fedele alla tradizione siriaca, spesso presenta la salvezza operata da Cristo come una guarigione e quindi Cristo stesso come medico. Il peccato invece è visto come una ferita che solo la penitenza può risanare. Dice, un uomo che è stato ferito in battaglia non ha vergogna di mettersi nelle mani di un saggio medico. Allo stesso modo, chi è stato ferito da Satana non deve vergognarsi di riconoscere la sua colpa e di allontanarsi da essa domandando la medicina della penitenza. Un altro aspetto importante nell'opera di Afrate è il suo insegnamento sulla preghiera, in modo speciale su Cristo come maestro di preghiera. Il Cristo, il cristiano, prega seguendo l'insegnamento di Gesù e il suo esempio di orante. Scrive: il nostro Salvatore ha insegnato a pregare così dicendo: prega nel segreto colui che è nascosto, ma che vede tutto. E ancora: entra nella tua camera e prega il tuo Padre nel segreto. Il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. Quello che il nostro Salvatore vuol mostrare è che Dio conosce i desideri e i pensieri del nostro cuore. Per Afrate la vita cristiana è incentrata nel imitare Cristo, nel prendere il suo ciogo e nel seguire la sua via del Vangelo. Una delle virtù che più conviene al discepolo di Cristo è l'umiltà. Essa, così ci insegna, non è un aspetto secondario della vita spirituale del cristiano. La natura dell'uomo è umile ed è Dio che la esalta alla sua stessa gloria. L'umiltà, osserva Afrate, non è un valore negativo. Se la radice dell'uomo è piantata nella terra, i suoi frutti salgono davanti al Signore della grandezza. Restando umili anche nella realtà terrena in cui vive, il cristiano può entrare in relazione col Signore. L'umile è umile, ma il suo cuore si innalza ad altezze eccelse. Gli occhi del suo volto osservano la terra, e gli occhi della mente l'altezza eccelsa. La visione che Afrate ha dell'uomo e della sua realtà corporale è molto positiva. Il corpo umano, sull'esempio di Cristo umile, è chiamato, ci dice, alla bellezza, alla gioia, alla luce. Dio si avvicina all'uomo che ama, ed è giusto amare l'umiltà e restare nella condizione di umiltà. Gli umili sono semplici, pazienti, amati, integri, retti, esperti nel bene, prudenti, sereni, sapienti, quieti, pacifici, misericordiosi, pronti a convertirsi, benevoli, profondi, ponderati, belli e desiderabili. Tante parole da meditare. Spesso in Afrate la vita cristiana viene presentata in una chiara dimensione ascetica e spirituale. La fede ne è la base, il fondamento. Essa fa dell'uomo un tempio dove Cristo stesso abita. La fede quindi rende possibile una carità sincera che si esprime nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Un altro aspetto importante in Afrate è il digiuno, che da lui inteso in senso ampio. Egli parla del digiuno dal cibo come di pratica necessaria per essere caritatevole e vergine, del digiuno costituito dalla continenza in vista della santità, del digiuno delle parole vane o detestabili, del digiuno della collera, del digiuno della proprietà di beni in vista del ministero, del digiuno dal sonno per attendere alla preghiera. Cari fratelli e sorelle, vorrei ritornare per concludere all'insegnamento di Afrate sulla preghiera. Secondo questo antico saggio, la preghiera si realizza quando Cristo abita nel cuore del cristiano e lo invita a un impegno coerente di carità verso il prossimo. Scrive infatti: dà sollievo agli affranti, visita i malati, si sollecita verso i poveri. Questa è la preghiera. La preghiera è buona e le sue opere sono belle. La preghiera è accetta quando dà sollievo al prossimo. La preghiera è ascoltata quando in essa si trova anche il perdono delle offese. La preghiera è forte quando è piena della forza di Dio. Con una parola ci invita a una preghiera che diventa vita cristiana, vita realizzata, e una vita penetrata dalla preghiera, dalla prossimità a Dio e così dall'amore per il prossimo. Grazie.